500. Seppie coi piselli. Fate un battuto piuttosto generoso, con cipolla, uno spicchio d'aglio e prezzemolo. Mettetelo al fuoco con olio, sale e pepe, e quando avrà preso colore passatelo da un colino strizzando bene. In questo soffritto gettate le seppie tagliate a filetti, ma prima nettatele, come indicato al numero 74. Bagnatele con acqua, se occorre, e quando saranno quasi cotte, versate i piselli grondanti dall'acqua fresca in cui li avrete tenuti in molle.